c'è scritta sulla sabbia, non c'è polvere di stella, e la pioggia di settembre lo porti via con sé. Non c'è sogno sulla pelle, non c'è canto di sirena, che le foglie di settembre lo portino con sé, lo portino con sé. Lasciami il tuo fiore quando te ne vai, dispari tra i fogli, dormirà. Torna nei miei sogni quando pioverà, la mia luna gialla volerà. Non c'è orma di conchiglia, non c'è volo di farfalla, e il vento di settembre non porti via con sé. Non c'è petalo di rosa, non c'è onda di sirena, e il tramonto di settembre non porti via con sé, non porti via con sé. Lasciami il tuo fiore quando te ne vai, dispari tra i fogli, dormirà. Torna nei miei sogni se pioverà, la mia luna gialla volerà. Essa volerà.